dolce, dolce, dolce, dolce zucchero, dolce zucchero, dolce zucchero, dolce zucchero, zucchero. Marlboro e alcol, Marlboro e alcol, storia d'eroe, eroe, dolce, dolce, dolce, core un mistero, noi che lei e i suoi occhi coi miei asciugamo lacrime, tra noi due venti di mille liriche mimiche di piacere e dolore, piacere e dolore, dolore, piacere e dolore, entrambi a sere nere ore a colore di mille e di miele di api regine odore, di sensuale regale sapore, volare, volere, sognare, un'ora insieme di ere nuove. Saremo io il sole, tu la luna, luna, arcana luna, ticca e strana, tra tabaschi ed arabeschi, di due lingue che allo stridere, i nostri sessi dolci a dalbe nuove descrivere, l'indescrivibile, l'indescrivibile, i nostri sessi dolci a dalbe nuove descrivere, l'indescrivibile, inemozionabile tutto tuo, tuo, e tu che sei su questo foglio mio per sempre, sempre. Comprime il tuo nome, idea mia, io deo tuo cuore stringe, tu che con me asciughi lacrime, ove il nostro cuore dolce amaro incinge, dolce zucchero, malboreato, dolce zucchero, dolce zucchero, dolce zucchero.